Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. E se ne volete ancora, tornate a disturbare la gente che se ne sta in faccia a casa. Oh, frate Leone, pecorella del buon Dio, ora che abbiamo sostenuto tutte queste cose per amore di Cristo Benedetto, annota che in ciò sta perfetta letizia. Perché sopra tutte le grazie che Cristo concede ai suoi servi sta la grazia di vincere se medesimi e sostenere ogni villania e tribolazione per amor suo. Perché solo in questo è perfetta letizia. Ecco, con questo forse mi sono risparmiato 5.000 anni di purgatorio, perché sono anni che io in questa giornata penso soltanto a una cosa, a fare Halloween. Sì, perché mi piace giocare con la coratella umana di plastica, mi piace giocare con gli arti depezzati, mi piace vestirmi da zombie, da mostro, da vampiro. I miei figli non sognano che tutto l'anno di fare questa giornata di Halloween, che a casa mia comincia già da una settimana prima. E tutti mi dicono, ah, infame, è una festa pagana, è qualcosa di lontano, ricordati che domani si festeggiano i santi, questa è la notte che anticipa la venuta dei santi. È vero, io, le mie radici contadine mi fanno ricordare che in effetti esistono anche i santi. E quindi oggi dedico questa puntata ai santi dimenticati, a quelli di cui nessuno più si ricorda perché va in giro vestito da zombie, dolcetto e scherzetto, invece che fare la processione, flagellarsi, camminare inginocchiato sul selciato, fare le scale sante, pensare ai santi. E quindi oggi con Giuseppe Sansonna, che uomo del sud, quindi devoto a un'infinità di santi, ripercorro la strada cinematografica dei nostri santi. Questo, buongiorno. Chi era questo santo? Questo era San Francesco, che per l'appunto andava a fare l'acquisto un po' come Halloween, solo che lui la faceva per i poveri, e viene preso a bastonate e buttato, scagliato nel fango. E però dice, qui sta la perfetta letizia, appunto qui si comincia a sconfinare nella beata demenza. Tu capisci che cominciando così i bambini, pensando a essere presi a bastonate, preferiscono andare a fare dolcetto e scherzetto. Però qui c'è la santità, qui stiamo parlando di santità, e con Rossellini che ci racconta il suo Francesco giullare di Dio, che appunto vive le disavventure della virtù, e qui sta la santità, perché non c'è razionalità, si va incontro a bastonate, a testa nel fango, però lo si fa perché appunto si è persa la misura della propria bontà, e questo è il commovente. Ne ha fatti tanti di San Franceschi, l'ha fatto uno, la Cavani, sì, ce l'abbiamo in canna, un altro l'ha fatto Zeffirelli, sì, l'ho ignorato proprio. Sì, ma era terribile, una cosa, una melassa terribile, mi ricordo in terra umbra si rivoltarono i santi nelle tombe nel vedere quella sorta di stralettura di San Francesco. Beh, andiamo avanti con i nostri santi. Senti che bella pace intorno a noi. Oh, che bella pace intorno a noi. E questa è la nostra casetta dove dormiremo. Ci sta così bene. Beh, il fuoco si è smorzato. Ah. Ginepro! Ginepro non risponde. Oh, il fuoco. Oh, com'è bello il fuoco. Beh, descrivi qua, perché qui siamo sempre in Francesco giurare di Dio, e qui prende fuoco il saio di San Francesco, e allora dico, ma Francesco, ti sta prendendo fuoco il saio? Dice, no, sì, ma è bello perché è iocundo il fuoco, è bello perché vuoi sborsare frate fuoco. Quindi l'accogliere tutto ciò che offre Dio, anche ciò che può essere letale, questa è stata la grandezza miracolosa di San Francesco. Sì, lo sappiamo, ma in questo film qual è il senso? Il senso è quello proprio dell'abbraccio ecumenico e meraviglioso che Rossellini, nel suo umanesimo vero, ma a parte gli scherzi, c'è davvero un aspetto commovente e bambino, l'infanzia come santità, cioè l'abbraccio, quello dolce, quello che non prevede le conseguenze di tutto ciò che è nella natura. Io penso che chi ci ascolta sta già affilando le falci e dando miscela alle motoseghe. Comunque andiamo avanti. Questo è un santo, così è di tutti i santi. Fondamentalmente impreparati, anzi innegati. Gli altari muovono verso di loro, macchinati dall'ebetismo della loro ossicosi o da forze telluriche equilibranti. Ma questo è escluso. È così che un santo perde se stesso. Quindicesima volta che ce lo fai sentire. Questo Carmelo è Carmelo Bene. Ma perché ti piace tanto questa cosa? Perché Carmelo Bene ha colto l'essenza del sud, cioè che è perdere la misura, e questo c'è l'omologia fra santità e sud. Qui parla di San Giuseppe da Copertino, che era inetto, illetterato et idiota, che nel 600 volava anche persino Francesco Rosi in C'era una volta ne racconta le vicissitudini, lo fa volare. Lui aveva le mani di burro, diceva sua madre, gli chiedeva tutto dalle mani, e quando comincia a volare cerca di abbracciare gli storpi, gli sventurati, e li porta con sé verso il cielo. Solo e poi che li lasciava cascare. No, loro mollano la presa, sventurati, e cadono. Quindi invece di graziarli peggiora la situazione. Cioè, il santo dell'eutanasia. in qualche modo, se vuoi, in maniera un po' sghemba, sì, però insomma è stato più santo degli studenti, santo, però sicuramente in quanto diciamo poco incline alla comprensione, per questo santo gli studenti, perché sì, può anche, era un sì. santo sempliciotto, quindi sì, agli sì. studenti che non studiavano. Beh, la sua semplicità è il modo di abbracciare anche lì il mondo, e che qui c'era un'omologia con Rossellini. Ma come lo vedeva Carmelo Bene, visto che questa cosa di Nostra Signora dei Turchi ci lo fai sentire continuamente? Lo vedeva come quello che ci può essere un santo razionale, cioè è la perdita proprio del controllo della razionalità del mondo e l'arrivare al nucleo profondo della vita, del non senso della vita. In questo lui vedeva la santità, cioè la santità la vedeva in quelli che si fanno decapitare dei turchi a Otranto, appunto quando arrivano i turchi, pur di non rinnegare la fede cristiana, si lasciano decapitare. In questo c'è una forte appunto tensione verso il religioso, e questo è per lui anche un modo di sconfinare verso l'irrazionalità, che è la santità, quello che chiamavano l'amore folle di Dio. Però vedi, sulle decapitazioni, sulle iconografie dei santi che illustrano le nostre chiese, c'è un punto in comune con quello che è l'immaginario di Halloween, se ci pensi bene. Ci sono chiese in cui vengono rappresentate tutte le forme di martirio, in cui viene descritto l'oggetto del martirio, la sega che taglia a metà il santo, la mannaia che lo decapita, il trincetto che lo scuoia, la graticola che lo rosola al barbecue. Insomma, era una sorta di rappresentazione di strumenti, era un dungeon sadomaso una chiesa in cui vennero rappresentati i martiri. I martiri di Otranto, quelli di cui parla Caramelo Bene, sono tutti impilati, i loro teschi sono tutti impilati, quelle orbite cave lo hanno suggestionato da bambino e ne hanno sconvolto l'immaginario, lì che è nato anche il suo teatro, questa iper rappresentazione cristiana e cattolica che lo ha sconvolto. Ti piacerebbe essere buono? Forse. Però come? Basta che tu dica voglio essere buono e che cerchi di esserlo veramente. Ti piacerebbe cambiare vita, vero? A lei piacerebbe cambiare la sua? Come? Ecco, sì, qui è una rappresentazione della santità a me molto affine, perché il teatro è il Messico in cui si svolge questa opera. Sì, questo è Nazarene di Buñuel, e qui appunto cambiamo latitudine e longitudine, raccontiamo dei primi del Novecento di questo sacerdote messicano, e però qui c'è Buñuel, che appunto anche lui è vicino in qualche modo a Carmelo Bene e Rossellini, e racconta di quanto il caso e la ferocia, comunque anche casuale, indeterminata dell'umanità, rendano a volte la santità grottesca. Gli dice il ladro che gli ruba anche il denaro al santo, dice: la mia vita non è servita a niente come la tua. C'è questo caso che mina le basi e le buone intenzioni, il cammino delle buone intenzioni è lastricato di casualità. Questo è quello che accade. Considera che il Messico è il teatro in cui in questi giorni si celebra più il paradosso, appunto, fra santità, culto e gusto estetico del macabro. Il Dia de los Muertos, cioè il 2 novembre che verrà, per il Messico è la più grande festa dei bambini, che giocano con queste calaveras, questi teschi di zucchero fatti in marzapane, via dicendo. Quindi c'è, come vedi, dei punti in comune con quella che è la più deprecata dai ben pensanti ricorrenza cara ai bambini che Halloween, e poi il culto dei santi. In fondo il culto dei santi e il culto del macabro si toccano molto. Diciamo che è la via della trascendenza che indica il macabro come macerazione della carne una cosa, e il gusto per la maschera da mostro di Halloween o dei vari film dell'orrore è tutt'altra cosa. Alessandro, lo perdono e spero che lo perdoni anche Dio. Cioè, tiriamo un po' su. È una cosa terribile questo film, devo dire, e me ne prendo tutta la responsabilità. È il film, questo è il momento in cui è stata appena ammazzata, sta per essere ammazzata Santa Maria Goretti. No, Maria Goretti non è che sta morendo, è la lunga agonia del cielo sulla palude di Augusto Genina, che è passato dai telefoni bianchi ai film fascisti, l'assedio dell'Alcazar. Beh, è in quest'area, perché bisogna santificare una santa della bonifica, esatto, dell'Agro Pontino, e quindi naturalmente... Ma siamo nel 49, qualche anno dopo la fine della guerra, lui invece recupera una sorta di neorealismo, paradossalmente, no? Infatti, ma lo sai perché? Perché Santa Maria Goretti, santa, piccola santa, che si fa uccidere per non cedere alle attenzioni sessuali di un altro abitante dei bonificatori della palude, è stata fatta santa, perché era logico, ci voleva un santo in quella terra recuperata dal fango, dal duce. Ma nei primi anni 50, forse non sai, il giovane Enrico Berlinguer, ma anche Togliatti, citava l'esempio di Santa Maria Goretti come esempio alle giovani donne comuniste. Come vedi, c'era un punto di comune. È un sacrificio assurdo, come diceva Ida Maagli, come diceva Giordano Bruno Guerri, preferire di perdere un valore forte come la vita, piuttosto un valore come anche forte ma trascurabile rispetto a vita, che la verginità, è una cosa abbastanza emblematica. È vero, era, però appunto, come dicevi tu giustamente tu, Berlinguer e Togliatti si riferivano a questa comunità rurale, appunto di quelle parti, che la saldezza dei valori, la voglia di continuare a resistere era un po' un valore forte che accomunava queste due chiese, che erano il PC e la Chiesa Cattolica. Nessuno ci obbliga. Siamo i fratelli senza nulla. Non giudico chi sta in alto. Dico solo che noi abbiamo scelto d'essere in basso, i senza nulla, perciò anche senza paura, liberi. Cosa vuoi dire con quel senza nulla? Siamo qui riuniti. Qua ritorniamo con un grande classico. Siamo al capolavoro della patafisica, la Giallice, cioè la Cavani prende Mickey Rourke fresco di sigarette incenerite e di gel nei capelli alla 9 settimane e mezzo e gli cala un saio addosso senza neanche truccarlo un po', quindi praticamente abbiamo una figura da barfly, da night newyorkese, calato ad Assisi e che appunto predica il bene. Cioè, siamo molto distanti da... Ma infatti, se ben ricordi, il cartellone di questo film era tutt'altro che mistico. C'era Mickey Rourke svettante, ipermuscoloso, sì, coperto delle vergogne soltanto da un lembo di rozzo saio, e che faceva venire la bavetta alla bocca sia ai buoni parroci sia alle madri badesse che andavano a vedere questo film per i suoi muscoli, non certo per la santità che trapelava da quell'uomo. È la corporalità perversa che in qualche modo si mescola e crea una sorta di sincretismo culturale che si intreccia. Pietosamente seppellito nella memoria dei film di santi, penso. E oggi noi lo riteniamo fuori così, per la nostra perversione solita. Melog. Cronache meridiane. Ma siamo sicuri, mo, che sto mago non è un fregnaciaro? Ma pensate, quella cognata mia che era completamente frigida, gli è bastato solo un'occhiata sua magnetica, mo, fa la mignotta all'aquila. Chi è? Ma che, stavi a dormire? Ma che a dormire? Stavo in estasi. Stavo a parlare con San Pasquale. Mi ha detto, porteranno da te una giovane femmina invasata dal diavolo maligno! Bravo, ci ha indovinato! Ah, vada retro, Satana! Oh, ma che fai, Limo? Mi scassi tu! Niente qua! Ecco qua! Ma che sta a fa? A lotta con lo diavolo, no? Questo è il femminaro, devoto, anzi supporto umano, con San Pasquale Belonne, vero santo, penso, protettore delle donne, ma veramente oggetto di venerazione, sì, profonda, sì. Mi sembra in Calabria, mi sembra. Ora devo a questo punto, dando questo frammento di film, San Pasquale Belonne, protettore delle donne, con l'immarcescibile e unico Lando Buzzanca, e fa il femminaro, avete capito dal rumore ripetitivo il tipo di esorcismo che applicava sulla povera fedele per renderla feconda, lui stesso provvedeva con il divino maglio a questo tipo di operazione. Ecco, abbiamo notato io e Sanson una gravissima lacuna, anzi sì, una censura. In YouTube è scomparso ogni frammento di San Pasquale Belonne, protettore delle donne. Pensiamo per un bieco motivo di censura. Purtroppo c'è una dolorosa rimozione, sì, di questi capolavori che vedevano comunque calato il merlo maschio, questa figura importantissima, questo uomo fallo della cultura italiana, che comunque merita assoluto risalto anche sulla rete, perché le nuove generazioni conoscano quanto ha fatto, quanto ha regalato alla nostra cinematografia. E soprattutto in questo caso si cala in questo frusinate sempre, che va bene per tutto ciò che è boccaccesco, ciò che è fallico, appunto, e ciò che è fecondatorio. È diventato un luogo dello spirito, una terra, esatto, intermedia fra il viterbese e il frusinate, non si capiva bene. In cui... Viterburi, dicevano, i racconti di Viterbo, infatti Pasolini a Biurò ignorò la trilogia della vita perché disse: ah, se questo doveva diventare la mia celebrazione vitale del sesso, ecco, forse ho sbagliato qualcosa. Poi ha fatto Salò e poi Pasquale di Bailon, dunque, diciamo, il femminaro quindi sì, siamo al confine tra santo e santone, cioè il santone che sì, ha come protettore il santo, ma usa la carnalità, e qui ci si ricollega anche al Mickey Rourke che citavamo prima. Loro hanno avuto Mickey Rourke, noi abbiamo avuto Buzzanca, che appunto rappresentava questa virilità eccessiva e sacrale in questo caso, perché è feconda, cioè la fecondità della terra, la fecondità della comunità che deve essere ripristinata, e il santone ne approfitta per trarne il suo piacere. Guarda, nelle memorie di molte mistiche del 200-300 fino al 400-500 troviamo dei passaggi che nulla hanno da invidiare alle sfumature di grigio ben note. Diciamo, se l'iconografia di ispirazione del delirio mistico erano i santi nudi e martoriati e vilipesi che erano nelle chiese, è chiaro che poi il sogno, il delirio sadomaso si fondeva con quello che era la giusta aspirazione ascetica di una mistica. Ti sei fatto niente? È stato Santo Eusebio! È stato Santo Eusebio che l'ha preso al volo! Ringraziamo Santo Eusebio! Quando il sole se n'è andato e la notte si fa scura, senza stelle, senza luna, c'è una grande luce nel cielo. Demonio, annidatosi nella gola del fanciullo, ostruiva il passaggio di Gesù. Non lo toccate, che è ancora fresco, non con la dita in bocca che vi avvelenate. E il comunicando sconvolto e insipiente fu colto all'improvviso da... Questa è la nostra maniera per ricordare il giorno dei santi, vilipeso dalla festività pagana e peccaminosa di Halloween. Per grazia ricevuta, un film incentrato tutto sul miracolo, sì, che lambì il giovane protagonista di questo film. Che in parte è autobiografico, si racconta la vita di Manfredi da regista per la prima volta si autoracconta. Fu veramente miracolato. Sì, pare di sì, quindi lui racconta di sé bambino che cade da questa collina e non si fa nulla. E siamo nella zona anche degli ex voto che abbiamo poco lambito. Tu hai presente a Largo Praeneste a Roma, che c'è tutta quella parete, sì, piena di colma queste... di gambe mozzate, coratella divelte, cervelli miracolati. Ma anche di questi disegni, no, molto elementari, che racconto, mi ricordo la Madonna di Pompei, ne vidi uno che da piccolo mi sconvolse, cioè il carro che cade, e quindi un carro disegnato in maniera elementare, la gente col sangue che però si salva, e quindi il miracolo disegnino. Era adeguato al luogo in cui si verificava la vita quotidiana delle persone miracolate. Però quell'iconografia naif, messa così centuplicata su queste pareti immense delle chiese, ha un forte impatto visivo, che poi a me ha alimentato molto l'immaginario. C'è un confine forte fra l'estasi, l'immaginario tutta forte... Tutta la tua filmografia è ispirata a questo beh, momento. In qualche modo, sì. Passetta! Toto! Toto! Che schifo fai? Non c'è vede! Una vede che ho! Ah, oh, è buono. Vai, figliolo. Grazie, signore. Prego la minchia. Anche qui abbiamo un esempio, però, di film che celebra in qualche maniera, ricorda la santità in una delle sue forme, se vuoi, più legate all'immaginazione, l'improvvisazione popolare, che subì comunque una forte censura. Sì, Totò, che ho visto due volte, l'ultimo caso di un film appunto investito in pieno dalla censura da parte un film di Cipriano Maresco, che raccontava appunto questo loro sottomondo, che è quello delle borgate palermitane, questi corpi che fondono tutta la lezione di Rossellini, di Buñuel, di Carmelo Bene, ma la portano alle estreme conseguenze. Loro riescono, per esempio, c'è una scena con il discorso della montagna che è completamente muto e appare fra queste figure. Ecco, ma racconta la storia, perché mica tutti si possono perdere in questa sorta di minestrone esegetico. La storia è proprio legata all'edicola di un santo in un vicolo. Sì, no, in uno degli episodi in particolare, in cui viene preso appunto, ripresa la musica di Bach, di La Passione secondo Matteo, uno dei dementi di periferia decide di rubare, sfondando un'edicola sacra, rubare appunto i gioielli deposti da un boss, e che lo ripaga ricollocandolo all'interno dell'edicola da morto, imbalsamandolo, quindi da reliquia. Il corpo straziato del Borgataro, un po' indementito, viene ricollocato all'interno dell'edicola e diventa esso stesso oggetto di culto. C'è vabbè, è una forma espressiva per raccontare quello che è il reale cammino della grazia quando attraversa il corpo di un santo, che lo lascia integro e immutato senza che l'intemperie del tempo possa corrompere quella carne che ha avuto il privilegio di essere attraversata alla grazia. Beh, abbiamo chiuso, abbiamo fatto contenti tutti. Buon Halloween.